questa settimana, se volete andare a trovare David Parenzo in montagna, se volete sciare con lui, se volete frequentare le stesse zone, le Dolomiti, eccetera, eccetera, è sufficiente andare dalle parti di Pinzolo. Dalle parti di Pinzolo. Ci sei, David? Sei presente, sì, con la tua voce? Sono in un'altra località, in una località segreta del Trentino, ma sono qui, sono venuto qui in questa regione perché è una regione a statuto speciale e sono venuto qui a salutare la sua gente, i suoi agricoltori, che quelli che producono, dici, dell'ottimo vino. Sono venuto ad incontrare il produttore, durante il giorno anche. Ma sono venuto ad incontrare i grandi produttori di mele, quelli che avete attaccato in tutti questi anni. È vero. E io invece ho incontrato i consorzi, ho parlato con loro. Ma con loro abbiamo parlato di Europa. Eri sulle piste questo di sci. Questo d'accordo. Ma siccome il maestro di sci delle mie figlie è un signore, dei miei figli, è un signore che si occupa anche di mele, ma potresti è stata una anche, grande scusami, occasione politica, sì, per capire la situazione potresti di questa anche, regione. Potresti anche indicare direttamente l'hotel se qualche fan della Zanzara è lì nei dintorni. No, anche per una questione di ragioni, no, anche per una questione di ragioni di sicurezza. Non posso farlo, davvero, non posso farlo. Mi tiro indietro, di fronte alle ragioni di sicurezza mi tiro indietro. Non anche la mia farlo, proverbiale cazzonaggine. Se comunque così sono si a Madonna dire di Campiglio, in una località vicino a Madonna di Campiglio. Protetta, località protetta, possiamo dire località no, protetta. Non è protetta, sono venuto ad incontrare i grandi produttori e allora agricoltori vero, di questa terra. Sei andato a sciare, gli basta. Ma quale sciare? Gli agricoltori li avete dimenticati e io sono venuto qui a testimoniare che questo Puttana settore della nostra economia, io non vi abbandono, io ci sono, io non vi abbandono. Non vi ho sulle piste sono da qua, sci. Sulle piste sono da venuto. Incidentalmente sono in Trentino perché vi hanno abbandonato tutti. Io sono venuto qui per incontrarvi, per capire le vostre ragioni. Vi hanno detto che l'Europa vi massacra? Non è vero, io ve l'ho raccontato, ve l'ho spiegato anche nel mio libro, c'è un capitolo dedicato al Trentino. Come no? Sulla raccolta di me, cosa sai tu della raccolta di me? Allora posso dire una cosa, è una notizia privata questa, andiamo oltre queste tue follie. La settimana bianca, ancora come cazzo si fa a fare la settimana bianca, ragazzi? È una cosa pazzesca, è una cosa di un'antichità enorme. La settimana bianca, solo l'elite se la può permettere in Italia. Vergognati, avrai speso 5-10 mila euro per portare tutta la famiglia là. Sì, ti dovresti vergognare, di fronte all'Italia che soffre, di fronte all'Italia che si fa un culo così, gente con la schiena spezzata. Ti disse devi vergognare, il conduttore radiofonico ti devi vergognare. Ma quando disse mai? Ti devi vergognare. Questo è il punto. La gente si spezza la schiena, oggi mi dici dovremmo fare, perché questa è la realtà, vi rivelo qualcosa di privato, oggi mi ha detto dovremmo chiudere la trasmissione per una settimana, dovremmo andare in settimana bianca, ma la gente sarebbe non se lo può permettere di andare a fare la settimana bianca, per i bambini è importante, e tu porti, per i bambini ma importante di cosa è importante? Importante gente che non riesce a farla, non fa non la fa, c'è gente che non riesce a farla e tu porti tutti, una cosa pazzesca, guarda veramente, guarda ma prima o poi cambierà. Beh, veramente adesso non è mica detto che cambi. Speriamo prima o poi cambierà. Devo fare un abbraccio fortissimo alla mia amica Susanna della Salaria, la prostituta della Salaria, la puttana in bicicletta. Non so se ci sta ascoltando, forse sì, lo fa ogni sera quando torna a casa. In realtà è stata vittima di un incidente in moto, un incidente, ha delle costole rotte. L'abbraccio fortissimo, si trova in ospedale. E insomma siamo tutti, se in questi giorni, non so per quanto tempo ne avrà, non vedete su quella via voi clienti, voi puttanieri che frequentate quelle zone, se non avete contatti non è sparita dalla circolazione. Ti abbraccio fortissimo, cara Susanna, e è perché ha avuto un incidente in moto che la tiene lontana dal suo mestiere, caro Parenzo, dal suo mestiere. Adesso è inutile che fai tanto lo ignori. La tiene lontana dal suo mestiere, dunque lei è anche dispiaciuta di stare lontana, non solo per un motivo economico, dal suo mestiere. Partiamo con il protagonista del giorno, almeno dal punto di vista mediatico, qua la gente non fotte un cazzo, né di Raimondo Etro, chi è, chi non è un ex brigatista condannato per il delitto Moro, e che combatte in studio, poi dice una frase molto sgradevole e viene cacciato da Giletti. Ora, la mia semplice domanda o la mia considerazione su quello che è accaduto ieri sera negli studi della 7, trasmissione nell'Arena, è questo: se tu inviti il signor Etro per farlo battagliare, sai come parla, sai che dice zoccola quella, zoccola quell'altra, sai che attacca in maniera molto viscerale, molto forte la Santanchè, la Meloni, altre persone, non solo queste, Poi se ne esce con una frase: meglio avere le mani sporche di sangue che le mani diciamo di acqua. È una citazione detta da lui, chiaramente molto sgradevole. Dopodiché viene cacciato dallo studio. Ma come, tu lo tratti come un reprobo? Viene trattato come un reprobo. Ma scusa, lo inviti, ex brigatista, che prende il reddito di cittadinanza, dopodiché dice una frase e lo cacci? Dice una frase e lo cacci? Ma che roba se è? Se dice una cosa come quella gravissima, hanno fatto benissimo a cacciarlo. Comunque, ricostruiamo tutto. Anzi, partiamo dalla... da che partiamo? Partiamo da dove volete, vai, vai. Vabbè, ma sulla Santanchè si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Questo è quello che penso. Poi, se questo vuol dire avere sessuale... Vede che le donne non lo accettano, ma no? Del pubblico, al di là della Santanchè. Del pubblico di mentecatti che applaude a comando, non mi interessa. No. Cioè, comunque tu vedi, cioè, io considero Giletti bravissimo, però non è che gli dice vuole ripetere quello che ha detto la Santanchè, cosa che facciamo anche noi naturalmente. Poi dopo lo vuole ripetere, lo vuole ripetere, lo vuole ripetere, giusto. Però poi non è che ti puoi lamentare se quella dice, se quello dice delle enormità. Lo vuoi ripetere quello che hai scritto, quello che hai detto? E lui dice: nemmeno, meglio fare un buco nel cuscino piuttosto che andare alla Santanchè, cosa su cui io non sono d'accordo per niente. Io tra le due cose, ma tutta la vita con la Santanchè, ma anche in generale tutta la vita con la Santanchè. Però non è che ti puoi accanire contro uno quando gli fai ripetere delle enormità. Dai, su, e dai, forza, ancora un altro, vai. No, questo non glielo accetto. Questo non può dirlo. Questo non può insultare. Lei si è offesa, però perché piuttosto che andare con un cesso simile, io faccio un buco sul cuscino, vuol dire che io ho un problema sessuale, vuol dire che sono impotente. E allora va bene, allora sono impotente, va bene. E poi arriviamo alla frase clou, la frase clou. La frase clou, in realtà anche questa non è male. Però dicono meglio le mani sporche di sangue da averci provato. Mamma. Questo è, averci provato. Detto da un ex brigadista, certo, è molto pesante, per carità, è quasi suona come una rivendicazione, anche se lui lo nega. Però gli hai fatto dire delle enormità e poi lo cacci dallo studio. È una sceneggiata, va benissimo. Non è che gliel'hai fatto dire, è il grande showbiz. Sì, ho capito, ma non è che l'hai portato lì a distribuire fiori al pubblico. Non è che l'hai portato lì a parlare della di Kant. Non si aspetta che uno dica non queste si aspetta. Cose. La terza volta ma che no, mi dica quello è una follia simile. Ma certamente non se l'aspettava probabilmente quella roba lì. Appunto. Negli anni 70 sì, che guardi. Voleva distruggere lo Stato e ha partecipato all'uccisione di Moro della scorta di e oggi guardi. Che non ammazza più le mani, usa le mani sporche di sangue. È il prototipo le mie mani sporche di sangue. Io glielo dico, dopo le preferisco sporche di sangue che di acqua come Ponzio Pilato, come gente molto che nella vita non ci ha mai provato. Ha capito? Che preferisco le mani sporche di sangue che di acqua. Sì, ma c'è un limite adesso dietro. Eccola qua. Eccola. Saluta un po' sta manica dei froci. Dì che sono quattro froci questi. Siete quattro froci? Eccoli, ma venite a trovarla sta ragazza, ma no? Venite a trovarmi, no? Che grappolo dei froci. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cruciani, sai cosa sei? Sei solo una macchietta, un burattino comandato dai poteri forti. Sei pagato e strumentalizzato dai poteri forti, da quelli che hanno i soldi, dalle multinazionali, quando difendi i produttori di latte, quando difendi i produttori di pellicce, sei solo una macchietta, Cruciani, insensibile, una carogna, ma tanto pagherai tutto prima o poi, Cruciani, pagherai tutto, e comunque con tutta probabilità il giorno che sei stato concepito era meglio che ti ingoiava tua madre. Saluti. Certamente. Sì. sentiremo più avanti tutta la battaglia tra Etro, Telese, Giletti che lo caccia. Anzi no, sentiamo subito il momento in cui sostanzialmente viene cacciato il signor Etro perché non chiede scusa su questa cosa. Prima, no, certo. Prima la battaglia con Telese e poi quando viene cacciato dallo studio. Dai, Raimondo Etro, ex terrorista, che dice meglio le mani sporche di sangue e averci provato piuttosto che eccetera eccetera. Non può venire qui, questo è un fatto pubblico, da ex terrorista a dire che allora, tutto sommato chi si sporca le mani e ammazza qualcuno fa bene. Io questo non glielo faccio passare. Continuiamo sulla stessa, ed è contrario di quello che lei ha detto. Sulla stessa cosa. Allora ritiri e dica anche allora, che ho sbagliato. Mi avete subito chiamato voi. Voi non c'entra niente. No, ma lei cosa c'entra con senso? Lei ha detto che chi si sporca le mani di sangue ci prova. Lei ora questa cosa la ritira subito. Noi non possiamo fare battute su questo. C'è gente che è una battuta. Noi non possiamo accettare battute. Non me ne frega nulla. Conosco Grandin meglio di lei. Preferisco avere Grandin meglio di lei piuttosto che di acqua. Ha detto una frase così grave, o dice scusa o io prendo e mi alzo, perché una persona che dice volta, meglio avere le mani sporche di sangue ma crederci, o lei le fa chiedere scusa subito, altrimenti grazie a tutti, buona continuazione della trasmissione. Chieda scusa. No, Etro. Chieda scusa. Sono morte persone. Etro. Abbiamo i familiari che magari guardano è questa trasmissione. Per fuggire, Etro. Chieda scusa. Spero che mi rimanga il taxi per tornare indietro. Le pago il taxi. Ecco cosa le serve. Glielo pago di tasca mia, però quella è la porta. Mi spiace. Va bene. Mi spiace. Grazie. Lei questa frase non vuol dire. Altro argomento, ragazzi, altro argomento, Salvini. Altro argomento, Salvini, sul pronto soccorso, gli stranieri e l'aborto. Io, francamente, devo dire che non ho capito un cazzo di quello che ha detto Salvini. So solo che attacca gli stranieri perché vanno troppo al pronto soccorso, c'è un intasamento di stranieri, vecchia questione. E poi se la prende con quelli che fanno 6-7 aborti. Ora, su questo devo dire una cosa: ognuno è libero di fare quanti aborti vuole, non è questione di stili di vita. Se uno vuole fare 7, 8, 10 aborti, saranno cazzi suoi, perché è un dramma personale. C'è gente anche che viene stuprata tra gli extracomunitari che vanno, ma a me non mi interessa questa cosa qua. Non capisco perché lo stile di vita, che vuol dire? Se uno vuole fare 6, 7, 8, 10 aborti, faccia 6, 7, 8, 10 aborti, vai. Qua bisogna essere seri. Qualcuno ha preso il pronto soccorso come il bancomat sanitario per farsi gli affari suoi senza pagare una lira, ed è ora di smetterla, che ci siano migliaia di cittadini non italiani che campeggiano in pronto soccorso, che hanno preso il pronto soccorso come l'anticamera di casa loro. Non è possibile, perché non pagano una lira. Alla terza volta che ti presenti paghi. Mi hanno segnalato, e noi stiamo approfondendo, delle infermiere e delle dottoresse del pronto soccorso, che alcune donne, né di Roma né di Milano, si sono presentate per la sesta volta per un'interruzione di gravidanza. Ora, io non entro nel merito in scelte che competono solo alla donna. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale o di etica a chiunque, ed è giusto che sia la donna a scegliere per se stessa e per la sua vita, però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita evidentemente incivile per il 2020. Incivile per il 2020. Federico da Roma, vai Federico, vai. Vai buonasera. Dimmi, no, dimmi. Per quanto riguarda ieri Etro, che tutto è uscito fuori per quella frase, quel post che l'ho messo su Facebook, in cui non si capiva quella zoccola di via, non mi ricordo che cos'era, a chi era riferita. No, ma quella là era una sua diatriba con la famiglia, sì, Mussolini, ho eccetera. Capito, ma chi se ne frega allora? Ma no, chi se ne frega? Perché lì hanno fatto un casino in relazione a quella frase, poi la cosa è degenerata, no? Perché vabbè, allora? Se allora? Esatto. Ma se poteva invitare un professore italiano per dirci un attimo quella frase come andava... Vabbè, ma qual è il punto? Di cosa vuoi parlare? Non ho capito, non è che possiamo stare appresso alle frasi dietro, chi se ne frega? No, ho capito. Ma tu sulla frase che ha detto sulle mani sporche di sangue, cioè è una cosa gravissima secondo te, è giusto averlo cacciato oppure no? Ma certo. Federico? Però se uno, è come quando uno invita a scarti e si incazza che diceva... Vero, vero, hai ragione Federico, ma ha ragione Federico, non c'entra niente. Ma ha ragione. Nulla. Ma non è che si può stupire, ragazzi, non è che uno si può stupire. Uno quando chiama le persone sa dove si andrà a finire, no? Sì, però chiama dal telefono normale, non chiamare con la voce. Sto al telefono normale. Cosa dice? Adesso stai al telefono normale. Marco, Marco da Ancona. No, basta ormai, Marco. Sì, io vorrei introdurre un altro argomento. Vorrei condividere una mia preoccupazione relativa al coronavirus e gli sbarchi clandestini che vengono dall'Africa, che mi sembra che sono un po' sottostimati. Oggi ho sentito parlare degli esperti del telegiornale e praticamente dicono ci sono molti meno arrivi di questi sbarchi clandestini che gli arrivi negli aeroporti. Allora? Ma negli aeroporti sono tutti controllati se hanno la temperatura. Qual è la tua preoccupazione? Non ho capito. Di che cosa ti preoccupi? L'Africa, non avendo modo di controllare, di fare degli screening di questo coronavirus. Sei preoccupato da quelli che vengono dall'Africa? È che possono creare una porta di ingresso proprio per questo coronavirus che noi cerchiamo di tenere. Sei preoccupato dagli immigrati neri che potrebbero portare il coronavirus? Il governo che non prende provvedimenti. Ma che vuol dire non prende provvedimenti? Spiegami, che vuol dire non prende provvedimenti? Se dobbiamo bloccare gli sbarchi. Ma quando arriveranno questi clandestini, uno li controllerà, no? Io parlo di quelli fantasma, amico mio, ma sai qual è il rischio? Che tu esci la mattina, cadi dal marciapiede, prendi una botta in testa. C'è anche questo rischio. Ci può essere anche questo rischio. D'accordo. E crepi. Però... Che cosa cazzo vuol dire? Quelli che potrebbero arrivare senza controllo, ho capito, tanto arrivano comunque, non si può fare nulla senza controllo, fosse per me bloccherei tutto. Appunto, ma non è possibile bloccare, ma qual è la preoccupazione? Ti dovresti preoccupare il controllo navale, perché ti dovresti preoccupare caro Marco, Sofia, no? Per me i controlli alle frontiere devono essere strettissimi, ferrei, ci sono già. Molto più ci di sono. Quelli che ci sono adesso, ma non è quello il punto, qualcosa può sempre scappare. Comunque le possibilità che Marco D'Ancona possa prendere il coronavirus, caro Marco, mi sembrano molto inferiori alla possibilità che tu esci di casa, caro Marco. Poi faccio l'autista, inciampi, oppure che non te lo voglio augurare, fai un incidentino sull'autostrada, per carità, toccati anche a pelle, ma seduto dal camion 5 mesi fa, sono stato esatto, 4 mesi fermo, amico mio, ti abbraccio, vivi i camionisti, fermi tutti. La zanzara. Toc toc! Buongiorno! Io credo che la principale emergenza di questo paese si chiami natalità. Vabbè, aborto non deve esistere perché è peccato. Nel senso l'aborto. Sì, sull'aborto noi siamo stati sempre contro l'aborto, no? Aborto non deve esistere perché è peccato. E le quindicenni vanno ad abortire. Ecco perché arrivano gli extracomunitari, perché i figli non li fanno più. Mancano i valori cristiani e familiari. Nel senso l'aborto è sane. Nel senso l'aborto è sane. Aborto non deve esistere perché è peccato. Nel senso l'aborto è sane. Nel senso l'aborto è sane. Aborto non deve esistere perché è peccato. Eccolo! Vai giù, se vuoi parlare al telefono con la zanzara da fallotto 00240024 oppure se vuoi mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ehi, te lo dissi il proverbio, quando manca il sorgio, come si fa? Quando manca i gatti su giabal, invece di lavorare si lavora, non a dici chiacchiere così, ma che mi credi che vuoi fare i soldi franca a dici chiacchiere, il telefono serve necessario, WhatsApp, non a lavorare e a posto, non a WhatsApp. Basta. A parlare poco è buono, un necessario poco è buono, necessario, no, a forza non andiamo a mettere la sera, dei 4 mattini fino alle 12, il necessario, una posta, una cosa, una lasciuta, un giornale, una cosa, una notizia a posto, un necessario, non di continuo, il cristiano deve lavorare, con il tempo, ognuno ha impegni suoi, un necessario, saluti a posto, non è niente 5 minuti, e c'è un sermone. Voglio dire cosa dice, faccio sapere. Caro Giuseppe, io non penso assolutamente che tu sia razzista e che tu sia fascista, eccetera, eccetera, e soprattutto non penso neanche che tu sia contro le donne, ci mancherebbe altro, però l'appoggio, tra virgolette, o cercare di giustificare, eccetera, quel coglionazzo di Feltri, quello veramente, cioè, l'ha detta talmente... l'ha fatta talmente fuori dal vaso con quella puttanata sullo stupro difficile, eccetera, e Parenzo aveva ragione tutta la vita a dire cosa c'entra lui, non è questione che lui sappia farlo o meno, è questione che ha detto una stronzata, per una volta potrebbe anche chiedere scusa a quell'uomo, no? E tu appoggiarlo in qualche modo, giustificarlo, eccetera, secondo me non ci sta proprio. Ehi, ehi! Le sardine, caro Parenzo, le sardine, le sardine. Care sardine, si io dividono, non capisco perché litigano tra di loro. Hai preso questa crociata, hai sposato questa perché crociata voglio, contro le sardine. Perché vivo per la loro distruzione. Perché vivo solamente ecco, l'hai in questo paese. L'hai detto finalmente. Sì, certo. Dall'inizio. Io voglio vedere la politica. Quindi sei di parte. Politica. No, sei di parte. Che di parte. Di parte contro le sardine, ma l'ho detto sin dall'inizio. Cioè, non è che mi devo nascondere. Io sono qui anche in questo periodo per vedere la distruzione. D'altra parte si sta avvicinando, come dire, no? Più tu parlano meglio. La distruzione è delle sardine. Sì, assolutamente. Mi è molto chiaro. Sì, sì, molto, molto chiaro. Io non sono uno. Io non voglio la distruzione di nessuno. Ma la distruzione invece. Politica. La distruzione sardine. Politica, ma no, sto chiaro, dicendo. Chiaro. Tu vuoi la distruzione sì, politica chiaro. Delle sardine. Sì, va bene, va assolutamente. Che sia messo agli atti. Ah, scusa. Sia registrato. D'altra parte, confermato. Posso anche aggiungerti. Messo, no, posso anche aggiungere una cosa. Sì, è verbalizzato. Posso anche aggiungerti una cosa. È una partita già vinta in partenza. Perché è difficile distruggere il nulla. Cioè, quando c'è il nulla, amico mio, il nulla è di per sé già il nulla. Capisco che il nulla, però, può essere più durevole di qualcosa. Cioè, il nulla può rimanere lì galleggiare, no? Galleggiate. Ecco, io sei voglio il la nulla distruzione. Perché te la prendi così? Perché ce le hai così a cuore? Ti ripeto, cosa ti hanno, anche chi, il nulla. Chi ha dato l'ordine? Chi ha dato l'ordine? Ma che ordine? Chi ha dato ma secondo l'ordine? Te io prendo ordine da qualcuno? Chi l'ha dato ma l'ordine? Secondo te io chi ha dato l'ordine? Chi ha dato l'ordine? Chi ha dato ordine? Distruggete le sardine. Secondo me se loro sono andati da sole le sardine. Morisi. Secondo me le sardine si stanno. No, ma le sardine si stanno distruggendo da sole. Adesso appunto. Te lo dico io che voglio dire. Certo. Quindi è curioso che ci sia anche un giornalista radiofonico dell'area sovranista che ha all'ordine sì, del giorno la distruzione delle sardine. È interessante. Dell'area sovranista. Senti qua, dell'area sovranista. Io potrei sì, dire una cosa. Sovranista. Se qualcuno mi dice dell'area come si potrebbe dire? Adesso mi devo inventare una cosa. Ultra conservatrice. Come si dovrebbe dire? Ultra conservatrice. Io ultra conservatrice. Cioè, ho ancora lo squint sulle mani. Come si deve chiamare? E mi chiami ultra conservatrice per dire. Delle no? Destre sporcaccione in quel caso lì. Delle destre sporcaccione. Delle destre. Ma hai capito quello che ho detto sull'aborto? Ti pare la destra sovranista? E dai, ma ci mancherebbe altro. E ma ci mancherebbe altro. Che dire, ma dai, ci mancherebbe su. Altro. Le ma sardine. Ci mancherebbe altro. Senti questa sardina. Pure il Medioevo vuoi. Senti questa sardina. Ma no, appunto. Ci mancherebbe altro. Ragazzi, guarda che ci mancava il Medioevo. Ti mando la gente lì in albergo, Ci mancava il Medioevo. Ci mancava. C'è una logica repressiva feroce in questi decreti, in queste leggi. Noi vogliamo che cambino, vogliamo che questo paese rifondi la sua umanità. dobbiamo ripristinare l'umanità, le signore sardine. Poi c'è un'altra. Una cosa un'altra meno folle del solito. No, sì, ma è totalmente generica. Tra le meno folli del solito. C'è una che si chiama Cristallo. Cristallo, lo sai chi è quella là del sud? Questa è una piazza di contenuti con una supercazzola incredibile. Cioè. È una piazza di contenuti, è una piazza che vuole far sentire alla gente che c'è un altro modo di vedere la realtà e la società. C'è una politica che da troppo tempo, da troppi anni parla allo stomaco del paese, noi invece vogliamo parlare al cuore e al cervello di questo paese, che sono ciò che ci qualifica come paese. Quando le piazze sono così bisogna sempre rispettarle. Oh, questa è una piazza bellissima che parla di accoglienza, di partecipazione, di libertà, di diritti, di democrazia, di costituzione. Poi pare che al sud ci sia stata una mezza scissione tra queste sardine. Una mezza scissione, uno del sud, tale Petrone si è scannato con Santuzzo. E chi l'ha deciso che voi siete le sardine locali? Siete un mar. È bellissimo, ragazzi. Già si scannano tra di loro, ma ottengono l'adesione del signor Cecchi Paone. Signor Cecchi Paone dice che appoggia le sardine. Appoggia le sardine, Cecchi Paone. Roba incredibile, dai. Non voglio nemmeno sentire, fatemelo sentire così. E appoggio il movimento delle sardine fin dall'inizio. Sentivo il bisogno, come tutte le persone che in Italia fanno riferimento all'ideale democratico, liberale, europeo e occidentale, di avere delle occasioni per dire che ci siamo. Ah, Antonietta dalla provincia di Roma, vai. Vai. Buonasera, niente, volevo intervenire in merito all'aborto. Ha detto prima delle cose, secondo me, bruttissime. Io ho detto delle cose bruttissime. Sì, e quali sarebbero? Ha detto che le donne possono fare tutti gli aborti che vogliono. Beh, certo, ma se lo vogliono fare. Se lo vogliono fare, ovviamente. Lei vuole limitare la libertà della donna? Ma perché devono farlo? Perché hanno la possibilità di non arrivare ad una gravidanza. Ma tu sei contro l'aborto, Antonietta? Sei contro l'aborto? Sei contro l'aborto? Allora, io sono contro quello che lei ha detto, perché ma io non ho detto semplicemente che ogni donna seguito da milioni di persone, non esageriamo, le donne possono fare tutti gli aborti, certo, che vogliono. Assolutamente, lo ribadisco. Lo sa quante donne darebbero la vita per avere un figlio e non possono. Ma che c'entra questo? Scusa, questo che c'entra? Che c'entrano? Allora, se una donna rimane incinta 6-7 volte e non vuole vuole avere questo figlio, può abortire, vuoi limitare il diritto? La possibilità di decidere se rimanere o meno incinta. Ma che c'entra? Se uno rimane lo stesso e se uno rimane a meno che non subisca uno stupro. E se uno rimane lo stesso incinta? In quel caso, Antonietta, vuoi stare zitta un attimo? Non ha deciso, il problema riguarda però in particolare, scusate, però il problema. Ma Antonietta dice delle cose folli. Il problema però riguarda queste donne, che soprattutto purtroppo sono extracomunitarie e non hanno assistenza, che si trovano in condizioni di dover abortire. Vabbè, lo sappiamo, e quindi questo, vanno dai. All'ospedale. No, è perché siccome hanno tagliato purtroppo i fondi anche. Sì, vabbè. Antonietta, dimmi, allora non ho capito, scusami. Lo conosce questo anche un bambino di 3 anni. Scusami, Antonietta, scusami un attimo, tu sei dunque d'accordo nel limitare il diritto all'aborto? Questo è il punto. Ma per carità. Allora, io sono contraria alle cose che ha detto, ripeto. Ma io ho detto, le donne possono abortire anche se... insisti ancora, le donne possono abortire 6, 7, 10 volte. Se vuoi te lo ripeto fino all'infinito. Ma perché devono abortire? Ma chi ha detto che devono abortire? Possono! Ma sicuramente... Ma non si deve arrivare all'aborto. E se uno ci arriva? Ma non ci arriva 7 volte. Ma che ne sai? Ma come che ne so? E se uno ci arriva 7 volte, che facciamo? Limitiamo? Sono violentate serialmente, mi faccio capire. Fermo. Adesso La Zanzara. Mio discapito, capito? Ormai è tutto degradato ormai. tardo venerdì sera ha dato l'ennesima dimostrazione di quanto sia una persona spregevole, veramente una cosa indicibile, una brutta persona, è davvero una brutta persona. Non si può dire a una persona che è stata in galera, dirgli ti hanno mai tamponato, te l'hanno mai premesso nel culo, in maniera, in quella maniera presa in giro, presa, non so nemmeno come dire, una persona davvero spregevole, spregevole, e mi meraviglio che il Sole 24 Ore gli permetta di essere alla radio. Quella è una brutta persona, veramente brutta, umanamente schifoso, e poi fa il buonista. Ma vaffanculo, Gottardo di merda, Gottardo di merda. Ma Santuzzo, San cazzo, San minchia, ma l'ha mai sentita un'azienda che richiede come lingua il napoletano? Hai sentito che cosa ha detto Steven Ogongo? Ma vai a fanculo a Casa Popolare, a te e tua sorella Casa Popolare, che cazzo mi ne fotta a me Casa Popolare? Mamma mia, queste sardine come mi entusiasmano, guarda, quando si scannano tra di loro, quelli del sud contro la cupola di Santuzzo, il cerchietto magico, Steven Ogongo cacciato, entrambi cacciati, ci sono anche le espulsioni, caro David, le espulsioni via WhatsApp, peggio della Casaleggio, ma dovresti incazzarti come una belva, hai attaccato i grillini, ha sprombattuto, questi fanno le espulsioni via WhatsApp, quello che succede, via WhatsApp, ma in tutti i movimenti, ma in tutti i movimenti poco strutturati, tutti i movimenti poco strutturati ancora si cerca, come dire, un'identità, si cerca un'organizzazione, è normale che sia così, in tutti i movimenti troveranno una loro maturità politica, come diciamo noi, non possiamo attribuirgli tutte le sciagure del mondo. Sei che hanno cacciato delle persone via WhatsApp, peggio della Casaleggio Associati sono, peggio della Casaleggio Associati, ma non possono cacciare nessuno, non possono cacciare nessuno per una semplice ragione, perché non ci sono gli iscritti, ma appunto, quindi capisci che siamo ancora in una fase di creazione del movimento, questo mi sembra chiaro, no? Gli attribuisci un ruolo come i partiti, ma non è. Base, è peggio dei partiti. Magari fossero dei partiti strutturati così, sarebbe una figata pazzesca. Invece... sì, ma no, loro sono un movimento nato proprio con delle radici che sono quelle di allora, dire di l'Emilia Romagna, fermo, no, fermo, Pasaran. Di nuovo Don Fanzaga, di nuovo Don Fanzaga. Ragazzi, mi sto entusiasmando questo personaggio in questo periodo, è tornato, ha sprombattuto. A favore. Un reazionario vero anche lui, quello un vero sì, reazionario, quello sì. Grande reazionario, grande combattente. Un reazionario diverso da te, ma su io altre non basi, sono reazionario. Un reazionario. Io non so, ma io ho fatto una battaglia contro Don Fanzaga. Pazzesco, mi stai paragonando a lui, dandomi del reazionario. Ma io ti porto in tribunale e ti levo tutto. Ti faccio rimpiangere vero, di essere vero. Stato in montagna lì, dai, su. Allora, Don Fanzaga, dopo il tramonto, spesso non si può uscire da casa. Ma Don Fanzaga, dove abiti tu non si può uscire da casa perché non c'è un cazzo lì intorno dove sei. Per questo non si può uscire da casa. Tu non esci da casa perché dove sei tu con Radio Maria intorno non c'è un cazzo. E allora non puoi uscire da casa perché intorno c'è il nulla. Di che parliamo? Dai, in Italia non è vero che non si può uscire da casa. In alcune zone non si può uscire da casa, non c'è dubbio. Ma nemmeno questo. In alcune zone che sono, che ne so, a Scampia. Ma non è vero nemmeno questo, perché poi a Scampia, essendoci la Pax, no? La Pax della Camorra, la Pax. Sì. Si può uscire tranquillamente. Mi sto chiedendo appunto se l'abolizione di questi decreti vadano, diciamo, siano in sintonia col sentimento generale dei cittadini, fino a prova contraria. Credo che la situazione reale del nostro paese è che in troppe reale? Città, in troppi quartieri, arriva poi il tramonto del sole come e te? Non si può più uscire di casa, insomma, quindi... Ma come te? Ma sei pazzo, sei... Mi stai anche paragonando tu dici a che i decreti di sicurezza Fanzaga. non vanno toccati, ma io che c'entra, mica con le stesse, ma che c'entra, a parte che non è vero, a parte che io non sono mai entrato nei dettagli, eccetera. Tu sei contro l'abolizione dei decreti di sicurezza, no, e quindi tecnicamente è diversa la cosa. Gli studiosi direbbero, per una strana eterogenesi dei fini, guarda che bella parola, per una strana eterogenesi dei fini arrivate alle medesime conclusioni entrambi. Posso due dirti reazionari che non è così, io... partite da due posizioni diverse, ma per una eterogenesi dei fini arrivate la medesima adesso di questa cosa, ti sei gloriato di questa espressione come se io non la conoscessi. Sentiamo un altro Don Fanzaga. Posso dirti, io non sono a favore, ma posso dirti una cosa, io non è che sono contro questa roba qui. Così. Io dico semplicemente una cosa, che questi della sinistra ci hanno rotto i coglioni per mesi, 5 Stelle, ma soprattutto il PD, sulle decreti sicurezza, la barbarie contro l'umanità, e poi fino adesso non li hanno toccati, ancora stanno a discutere se toccarli o no. Vergognatevi, Don Fanzaga, ancora, dai. E quindi sarà necessario che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, diciamo così, incominci a mettere su centri di controllo in Africa, ma anche perché in Italia col nuovo governo arrivano molti migranti dall'Africa. E d'accordo che ci sarà un check-up, quindi quando arrivano, check-up. Insomma, sappiamo che il virus può stare anche 24-25 giorni. Questo è un altro che pensa che il coronavirus può arrivare dall'Africa. Federico da Rovigo, vai, avanti tutta. Avanti tutta, Federico da Rovigo. Buonasera. Dai, vai. Ultimo che levo il viva voce. Molto bene, Federico, molto bene. Dimmi. Buonasera, Cruciani. Vai, forza. Io volevo solo dire che se volevano cacciare Ebro, come cazzo si chiama, faccio come Etro. Voglio ricordare che il signor Etro è stato, come dire, partecipe, stato condannato per avere per avere fatto parte della banda che ha ucciso il signor Moro. Stiamo parlando di tantissimi anni. Un criminale incallito, per carità. Criminale che ha pagato anche il dazio per questo. Prende il reddito di cittadinanza. Prende il reddito di cittadinanza, polemica. Chi se ne frega? Volevo dire quello, però una volta che lo inviti in trasmissione, quello comincia a sproloquiare, a offendere tutto. Sì. Lo caccia, appunto, come ha fatto. Ma lo doveva cacciare subito. È stato Telese a tornare indietro un attimo a far notare quello che c'entra, ha fatto bene Telese a fare quella roba. Però ha fatto bene, ma io sono d'accordo con te su una cosa. Filetti doveva cacciarlo immediatamente. Ma questo non lo so, cacciarlo per me non andava cacciato. Per me non va cacciato, se lo caccia è una trovata, diciamo, scenografica. Però lascia perdere una cosa di show. È una trovata. Però posso dirti, Federico, una cosa. È come se la frase che ha detto esistono anche i valori, esistono anche le cose che uno dice che sono talmente tu prima gli dici, allora ripeta quella cosa, zoccola, cosetta la Santa, che è meno grave dare della zoccola alla Santa, che è più grave dire che le mani sporche di sangue, dai su. In teoria è più grave dare della zoccola a qualcuno, in teoria, no? Donno del morto di fica un uomo, che anche quello è grave. No, per me va bene tutto, purché uno però non è che dici no, le mani sporche di sangue non va bene, rivendicare le mani sporche di sangue non va bene, però dare della zoccola a qualcuno va bene, lo puoi far ripetere, dai su. Ma a parte quello, anche quando ha detto meglio avere le mani sporche di sangue, averci creduto lì. Alessio da Torino, ho capito. Alessio da Torino, vai. Alessio da Torino. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Ancora questo buonasera. Prendo. Non lo vogliamo il buonasera. Ho capito. Allora va bene. Io ho chiamato perché l'altro giorno da Formilli, tu lo chiami Santuzzo, Sancazzi. Santuzzo, io aggiungerei qualche altro nomignolo, Santone, Santino, perché veramente ma veramente hai ragione su questo, Alessio, perché ha l'aria un po', l'allure un po' da Santone, che te la deve insegnare, te la deve dire, te la deve raccontare giusta, e ti dice lui qual è, no? Sembra il depositario della verità, della scienza, della saggezza. È così, ti dà l'idea con quella risata, sardonica, sta lì, sardonica, sardina, sta lì, fermo, immobile, e di fronte alle persone che discutono sta lì come se non ci fosse, capito? Come se non ci fosse a dirti come va la vita, ma vaffanculo, dai su. E allora questo perpetuo rappresentante di istituto cosa ha fatto da Formilli che pendeva dalle sue labbra, voglio dire, si è sognato di dire la vera rivoluzione sarebbe procreare, giusto, me lo ricordo benissimo, procreare. E che vuoi fare? Cioè, ci rendiamo questo non mi sembra una bestialità. Vabbè, adesso questa è un'idea che non so quanto condivisa dalle altre delle sardine, ma la rivoluzione procreare è una parola che potrebbe dire padre d'Olivio Fanzaga, per esempio, no? Cioè, ma non mi sembra una bestialità, queste sono cose che dice la Meloni, le campagne per la procreazione, cioè vuole dire, ma che cazzo gli viene in mente a questo qua? Che vuoi fare? Però non mi pare la cosa più grave che ha detto, anche questa è una supercazzola, ma non mi pare la cosa più grave. La cosa più grave sono altre, più grave, tra virgolette. Non c'è nulla di grave, perché essendo il nulla, non c'è nulla di grave. grave. Quando uno dice, quando uno dice che il napoletano è allo stesso livello dell'inglese, ma che vuoi dire con uno così? Quando uno dice che il napoletano è uguale all'inglese, dai, o il catanese è la stessa cosa, dai. Alice da Brescia, Alice da Brescia. Vabbè, Alice. Quando la Lega diceva che le lingue locali, le lingue, gli idiomi locali, i dialetti erano come le lingue nazionali. Senti come difende. Nessuno, senti come difende. A parte il sottoscritto diceva che senti era come difende. Senti come difende. Alice da Brescia. No, il contrario ho detto, però dico nessuno quando loro dicevano così, che esiste la lingua. Ma non l'ha detta così, Alice da Brescia, prima la lingua che esiste peraltro, la lingua veneta, la lingua lombarda, la lingua. Ma non è che hanno detto che il lombardo, magari non ne hanno dette di peggio, il lombardo è uguale all'inglese, Alice da Brescia. I leghisti volevano insegnarlo nelle scuole, figurati. Ma per carità, Alice da Brescia. Diamo tanti cazzi, ma pure il lombardo nelle scuole. Ma negativissimo. Alice. No, i leghisti lo volevano insegnare nelle scuole. No, i leghisti, negli anni passati. Io ho sempre detto che è una cazzata, però Alice. Non ti abbiamo sentito protestare, non ti abbiamo sentito. Alice non ti abbiamo sentito. Alice mia, anche all'epoca. Alice mia, dimmi. A proposito del politico che ha tutto questo voglia di abbracciare la religione, si fa fotografare col crocifisso e poi non ha pietà di queste povere donne. Non ha pietà. Trovo un controsenso. Ah, Salvini dice. Crocifisso. Io non nomino il Dio invano, Beh, addirittura, cioè non nomini Salvini, addirittura. No. Non vuoi nominare Salvini, sei a un tale livello di antisalvinismo che non vuoi nominare Salvini. Non è un antisalvinismo, è e tu non lo sopporti, realtà, ti sta sui coglioni, questa è la realtà. Non è che mi sta sui coglioni. Lo vedo in una fotografia con un crocifisso sul petto. Quasi fosse un defunto, Sì. E poi non ha pietà per queste povere donne però che posso sono poverissime. Sì, assolutamente. Giusto. Però posso dirti una cosa: in teoria uno col crocifisso è anche contro l'aborto. In teoria, sempre in teoria. Per certo cui ci sono mille contraddizioni. Ciao Alice. E anche allora uno col crocifisso non dovrebbe fidanzarsi due volte, non dovrebbe avere figli fuori dal matrimonio. E non parlo della sua vita privata, perché ognuno fa quello che vuole. Chiamiamo Etro, grande protagonista. Raimondo Etro, ex brigatista. Vai. Pronto? Raimondo? Sì. Sono Cruciani, come stai? Ah, guarda, cioè, non so perché... Pensavi a me, diciamo la verità. Oggi un mio contatto mi ha detto ti aspetta una telefonata di Cruciani. Allora, voglio dire una cosa, caro Raimondo. Cosa è successo ieri sera? Io ho notato soprattutto una cosa, al di là della tua frase, di cui parleremo. L'ipocrisia di chi ti invita e poi si stupisce che tu usi certe parole, che tu usi certe frasi e te cacciano. Ma è una sceneggiata, diciamo la verità, David. È una sceneggiata quella che è stata messa in piedi. Ma in alcun modo, nessuna sceneggiata. Era incazzato davvero Giletti, ha fatto benissimo. Se Etro ha detto una porcata inaudita, perché un conto è confrontarsi sulle idee. Un contro è dire un contro è dire ho le mani sporche di sangue, meglio le mani sporche di sangue che di acqua, rispetto alla sua storia, che è una storia di violenza, e quindi ha fatto benissimo a cacciarlo, non l'aveva mai cacciato prima. Ma è una prima. Cosa ipocrita, dai, lo su. Ha cacciato su ma questa dai, frase su. Vergognosa. Se tu ti vergogni dietro non lo inviti, no, ma di che parli, dai. No, ma ci si può confrontare sulle cose senza rivendicare Raimondo, le mani sporche di sangue, che sono una porcheria. Che hai da dire a Giletti su questa storia? Ma non niente, nel senso che tra l'altro è poco prima di andare in diretta, cioè Giletti è un problema, ha fatto stavolta vai giù pesante. Quindi, ma figurati. Sì, ma è stata così. Ma ragazzi, per questo lui dice questo. Ma lui dice una cazzata. Ma non mi avrebbe chiamato per la. È una per cazzata perché ti ha chiamato più volte, come purtroppo abbiamo chiamato anche noi. E quindi, ma non è. Sicuramente non l'avrà mai detto perché non è nel suo stile. Allora chiedilo. E anche qualora lo avesse detto, allora tu sei un burattino, cosa che non credo che tu sia. Ma non capisco perché lo difendi, Cruciani. No, io non difendo. Fame. bene. Io non so. È un'infamità. Ah, dice stronzate su Giletti. E si lamenta perché giustamente lo hanno cacciato, appena nel sedere, hanno fatto anche bene. Perché di fronte qualunque conduttore di fronte. Perché penso che sia tutta una sceneggiata simile televisiva. Ma quale sceneggiata? Ma lui, che sceneggiata? L'ha detto lui? Quale sceneggiata è? Che no, sceneggiata è una sceneggiata perché se inviti Etro poi dici una cosa, non gli lasci ma nemmeno spiegare detto il senso e poi ma lo cacci per fare lo show. Ma lo capisco. Tu dici però una è così. Cosa? Dai. Come tu dici una cosa? Ma state litigando tra di voi. Beh, ma sì, succede. Perché un conduttore responsabile dice queste cose qui, da me non le dici. Nessuno può immaginare che un ex brigatista dica le mani sporche di sangue. Ma ne ha dette di tutti i colori, dai, su Raimondo. Scusa un attimo, che cosa ti avrebbe detto Giletti prima della trasmissione? Non ho capito. Mi ha detto questa volta, mi raccomando. Vai giù pesante. Sì, ecco. Ma figurati. Chiediglielo. Ma figuriamoci. Chiediglielo se non si rimangia ma la parola. Ma non è assolutamente no nel suo stile. No, stai diffamando una persona. Ha voluto imitare Barbara D'Urso. Giletti ha avuto quello che voleva. Giletti ha avuto quello che voleva. È un provocatore, ma sta bene così. Io mi sono prestato. Tutto qua. La frase però uno può dire quella è pesante. La frase è una frase pesante perché quando uno dice una cosa del genere nella tua bocca può risultare pesante. E quella è evidente, no? Dai, su. Okay. Allora, io ho detto una frase tratta, ho citato una frase tratta dal libro Una pistola in vendita, che dice: preferisco avere le mani sporche di sangue piuttosto che di acqua come Ponzio Pilato. Ma non sei uno scrittore, sei un ex terrorista, che vuol dire? Ognuno ma è evidente è che detto da te, è evidente che detto da te in quel contesto, in quel contesto, quando ti accusavano di essere stato, ti accusavano di quello che hai fatto, detto da te significa che in qualche modo rivendichi le mani sporche, rivendichi quello che hai fatto. Io non rivendico proprio niente, mi sembra di aver già chiarito la mia posizione. E allora perché l'hai detta questa cosa qua? Per rompere i coglioni alla Santanchè? Diciamo, questo è l'unico motivo. Cioè, voglio dire, con la storia delle mani sporche di sangue, devo andare a pulire le latrine, mi ha chiamato amico dei comunisti, compagno etro. Come che c'entra? Beh, allora non ho capito. Quello che c'entra con rivendicare una rivendicare. Ma non ho rivendicato proprio niente. Ma quando uno ma dice vedi che allora hai fatto tu da solo, vedi che hai fatto tu da quando solo. Quando uno dice meglio avere mani sporche di sangue ma provarci, questa è la sostanza. Significa rivendicare qualche cosa. Ma non ho rivendicato proprio niente. Credo che sia esattamente quello che comunque io penso della vita. Se dovessi scegliere essere brigadista o essere la Santa Anche, cosa sceglieresti? Ma senza meno sarei brigadista. Senza meno brigadista? Ma pensa te. Ma pensa questo però. Questa è una vergogna. Perché mi toccherebbe diventare donna, cosa che non è che... Non ti piace essere donna. Hai detto una schifezza. Allora sei d'accordo con Cruciani? Quindi adesso questo vorrebbe dire... Allora eri d'accordo Cruciani con lui? Per quel che dicesse questa stronzata? Su quale? Sulla Santa Che? Non ho capito su che cosa. Ma questo su è un questa stronzata che ha detto ma adesso. Ma no, che non sono d'accordo. No? Ma so che, no, allora che non sono d'accordo. Che non c'è e allora vedi, ma io uno potrebbe dire la stessa cosa. Allora vuol dire che eri d'accordo tu. Contesto il fatto di essere cacciato. Tu eri d'accordo con Etro. Tu sei d'accordo con Etro. Ma zero proprio. Ma zero. Ti sei messo d'accordo perché faccia sta sparata del cazzo. Perché lui è un coglione. E quindi siccome ha fatto quello, allora vuol dire che sei d'accordo. Ma lascia perdere Giletti. Lui dice una cosa, no, Giletti smentirà. Non c'è bisogno che lo difendi te. Sì che c'è bisogno. Ma che? Ma si difende da solo. Ma non c'è bisogno. Sputtana la professione degli altri. E va bene, si difenderà. Non è che c'è figura di un ex brigadista che dice una cosa di Giletti. E quindi dire una stupidaggine simile o è da malati di mente o è da stronzi. Perché disprezzi così tanto la Santanchè? Scusami. Io non ho nessun tipo di disprezzo. Voglio dire, la mia è forse ironia malcelata. Beh, quando parli, ormai... quando chiami qualcuno zoccola, però non è troppo una presa per il culo. Zoccola ha un significato ben preciso. Non mi riferisco a una donna in particolare. Per me zoccola è anche un uomo. Ho capito, ma quando la Santanchè ti attacca in questo modo qua, tu cosa pensi di lei? Questo è il punto. Cioè, cosa pensi di lei? Che sia lì a fare la sceneggiata, che ci crede veramente? Lei dice di te che tu odi come odiavi prima quando eri un brigadista. Secondo me la Santanchè è una persona brutta fuori e cattiva dentro. Ha una cattiveria dentro, ha una cattiveria. Disse l'ex brigatista. Che sfoga contro, ma disse non contro di me. La sfoga contro tutti. La sfoga contro tutti. Probabilmente è una persona irrisolta. Ha qualche problema. Dire, ma che l'ex brigatista ci spieghi chi era Santanchè. Lui che ha appena detto appunto, le mani di sporche di sangue. È una follia. Dato che lei mi ha detto che sono impotente, ha insinuato che io faccia queste battute perché sono impotente, che cosa devo rispondere? Va bene, sono impotente, ho problemi di sessualità. Però lei si è magari ce l'hai sul serio, che ne so io. Cioè. Si è arrabbiata. sì, ma probabilmente sì, non lo so, portami tua sorella. Ma comunque ho detto, lei si è indispettita perché io ho detto che avrei preferito, cioè preferirei fare un buco su un cuscino piuttosto che andare con una come lei. Quindi addirittura, non mi sembra addirittura. Sì, infatti glielo ho detto. Ma questo non è possibile, comunque è una bella donna. Che vuol dire? Preferirei andare con Giletti, infatti gliel'ho detto ieri sera che lui è stato anche lusingato. Cioè, tu preferiresti andare, con un uomo piuttosto che con la Santanchè? A me questo è sicuro, guarda, proprio se dovessi essere messo, cioè, nella condizione out, sì, sì, sicuramente preferirei andare con un maschio che con una come la Santanchè. Ma dai, non è possibile questo, dai, su, cioè, non, ma è una bella donna, ma come fai a dire una cosa del genere? Sì, bellissima, guarda. Beh, sì, è una bella, considerata una bella donna, assolutamente. Sì, cioè, bellissima, guarda. Ma ho capito, però non è che uno, cioè, addirittura... Ma scusa, Per carità, chi... De gustibus. Ma con chi io vorrei scopare, ma che cazzi miei, no? Cioè, tra Giletti, cioè, tra un maschio e la Santanchè, tu sì, preferisci un maschio? Se dovessi scegliere, questo facciamo un discorso per assurdo, sì, piuttosto che andare con una come la Santanchè, farei sesso con Giletti. E la Mussolini? La Meloni, che ne so, la Meloni? No, la Meloni, ecco, lo stesso discorso. Invece stesso discorso. Rachele. Ci hai ripensato sulla... No, one touch and away, no? Una botte via. Esatto, visto che parli anche l'inglese. Signor Parenzo. Vabbè, però. Io sono basito da sto coglione. Mamma mia, guarda, è vero. Adesso si perché può, è un non coglione, si... perché è un personaggio, perché appunto o viene utilizzato come pupazzo e quindi vabbè, ok, recita a soggetto, o se davvero pensa quel che dice c'è da mettersi le mani nei capelli perché è agghiacciante. Per quella cosa che hai detto, vuoi chiedere scusa? Ancora con questa storia delle scuse. No, ieri te l'hanno chiesto, hai detto sto cazzo. Ripeto, va bene. Nessuna scusa. Dici, mi è scappata una roba e punto e basta. No, non mi è scappato niente. Ho capito, allora significa che in qualche modo rivendichi, cazzo. Non rivendico niente, allora forse non ci capiamo. Non, cioè, il brigatismo ti fa schifo, le brigate rosse ti fanno schifo? Allora. Non rivendico, sì, le brigate rosse mi fanno schifo e mi fa schifo anche il mio passato, se è per questo, va bene? Tanto per chiarire. Tu chi è che chiami, chi è che consideri una zoccola, per esempio? Ma anche la mia gatta, io chiamo zoccola anche la mia gatta Cenerentola. Quando la chiamo gli dico, vieni qua zoccola, per me non ho... come chiamo culattone il gatto qua sotto. Ciao. La Zanzara. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta. Io è l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda. All'abbiato, guarda di mia collo. Guarda, Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia, Donald Trump. Mamma mia, I will be. Mamma mia, Donald Trump. Oh, fly at the Donald Trump. Oh, this is just Sempre casino. Iran, anche America, sempre casino. Donald Trump. Oh, boom, boom, boom, boom, boom. Non va bene così. Ma sulla Santanchè, sì, si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Una domanda sola, una. Al presidente, è possibile? Fammela fare da Barbano. Barbano. Barbano, come cazzo si chiama? Problemi suoi. Direttore pazzesco! E che deve stare a fare Marocco? Chi so chiusco fuso di cinese? Tutto brutto, couscous, mangiano ogni ilde, sporcizzi, botti, si schifosi i marocchini. Non c'hanno l'igiene, la pulizia, le strade lì. Botti, perché hanno ammalato i pesci di cinese. Che sei andato a fare lì? A lavorare lì? Ma ci lascia a freddo. ha fatto le vaccinazioni extra comunitarie delle morti di lì fuori nazione, quando arrivi da una nazione all'altra adesso bisogna stare attento. Schifosi sudici, andate a tossire a casa vostra, pezzi di merda, ci infettate anche il tutto, fate schifo, pezzi di merda. Questa, non so perché, una voce che mi entusiasma, proveniente da Prato, da quel di Prato, mi ha sempre entusiasmato. Invece noi, voci razziste, ti piacciono, ti entusiasmano sempre le voci razziste. No, questo è probabilmente un gioco, ma io ho baciato in bocca un cinese la settimana scorsa, il mitologico Marco Wong, che abbraccio ancora, l'ho baciato in bocca. Quello perché la tua ambiguità dimostrazione sessuale ormai tu dici nota. Ha prevalso questo sull'antirazzismo, diciamo, rispetto alla famosa cineseria, ha prevalso su di la mia ambiguità sessuale. Un'occasione ghiotta, era un'occasione secondo me per baciare un uomo e giustificare, non me la sono fatta sfuggire. Esattamente. Però posso dirti una cosa, io credo che fra poco ci sarà un collegamento con Freccero, perché secondo me il format terrorista in studio lui lo potrebbe far evolvere verso qualcosa, però tra qualche istante, perché secondo me per lui è troppo poco quello che è accaduto ieri nello studio di Giletti col brigatista cacciato. Che succede? Rai, eccolo qua, che c'è? Roba da Rai Uno, dai, un ex, già il fatto che si chiama ex. Scusa, ex brigatista, perché dai, cosa doveva fare? Cosa avresti fatto tu? Scusa, cosa avresti... Ma una roba da Rai 1, mancava solo Don Matteo. Dai, tutto fa la fiction. È fiction, naturalmente. Non si vedeva naturalmente la violenza. Naturalmente non c'era violenza. Effettivamente, sì. Non c'era, cosa non si c'era doveva vedere, violenza, qua. Naturalmente delle brigate rosse. Dai, che non si è visto niente. Non è TV, non è vedere. E cosa si doveva vedere? Cosa si doveva vedere? Stiamo naturalmente lavorando a un nuovo grandissimo format. Sempre il format. È un format geniale. Naturalmente si va in carcere. Naturalmente si prendono le ultime brigate rosse rimaste. Naturalmente in carcere. Qualcuno ci sarà. Naturalmente ancora. Vero. Qualcuno c'è. Naturalmente con delle telecamere li si segue. Naturalmente si prova a ricostruire esattamente. Naturalmente quella che era la loro violenza, naturalmente. Gli si consegnano dei mitra, delle pistole e tutto. Sennò è fiction. La gente deve sapere che esiste la violenza politica, naturalmente. E l'unico modo per farlo capire alle giovani generazioni, naturalmente, è ricreare quel clima. Clima incredibile di gente che stava per strada, che veniva colpita, naturalmente. Dunque, liberarli, armarli. Ho chiesto naturalmente l'autorizzazione alla RAI. Tutte bocciate. Non capisco naturalmente, perché non hanno la idea della. Sono ormai presi dalla fiction. Naturalmente. Invece la realtà. Sono tutto Don Matteo, dai, Montalbano, ma dai, sempre in Sicilia. Risolve tutti i casi. Ma quando mai hai visto tu un poliziotto? Dai, risolvere tutti i casi ogni volta. Ma lo vedete la giustizia com'è in questo paese? Armare le brigate rosse non mi sembra. Capisco naturalmente le difficoltà che sia sì, ma solo perché sono molto pochi, naturalmente, quindi l'effetto non ci sarebbe, naturalmente, così, e questo mi dispera da morire, sì. Naturalmente. Però l'idea di far capire che cos'è il terrore. Pensate ad esempio cosa potrebbe essere rigambizzare qualcuno, naturalmente. Provare naturalmente con delle telecamere, naturalmente in diretta 24 ore su 24, naturalmente seguire questa vita, le riunioni clandestine che organizzano i piani di agguato, la corsa alle armi, naturalmente. E penso che è l'unico modo per far capire davvero il terrore. Però immagino che anche polizia e carabinieri abbiano respinto questo format, credo. Mi vogliono denunciare. Ma cosa? Io ho detto, questa è televisione, è realtà. Tutto ormai è tutto fiction. Sì, è bene, voi siete abituati a questi telefilm con questo pelato di Montalbano. Vabbè, abbiamo capito. Grazie. Giuseppe da Milano, vai Giuseppe da Milano. Devo dire che oggi mi è preso quasi un colpo, perché ho letto che c'è uno studio inglese, le solite puttanate che dicono, dando, creando allarmismi incredibili. Lo studio è questo, guarda che ti farà piacere questa cosa qua, tu che sei, come dire, ti professi monogamo, no? C'è, c'è una statistica, mi professo per ora, insomma, sì. C'è una statistica secondo la quale c'è una relazione tra il numero di partner sessuali avuti nel corso della vita e il rischio di una diagnosi di cancro. Cioè, rispetto alle donne che non avevano avuto nessuna storia o soltanto una, quelle donne con 10 o più partner avevano il 91% in più, secondo questo studio, di probabilità di avere una diagnosi di cancro. Negli uomini, chi aveva avuto dai 2 ai 4 partner sessuali in un contesto particolare aveva una probabilità più alta del 57%. Cioè, sostanzialmente, più scopi, più sei ribertino, più tradisci, più hai partner, eccetera, nella vita, più hai possibilità di prenderti il cancro. Tutto collegato con le malattie sessualmente trasmissibili. Cazzo, mi è venuto un colpo davanti a questa statistica. Cioè, praticamente si sta dicendo, si sta esaltando la monogamia. La monogamia crea meno malattie e soprattutto meno cancro. Cioè, una roba incredibile. Io non ci credo a questa roba qua, dai. È una mezza follia. Giuseppe da Milano, dai, Giuseppe. Ciao, Grossani. Dimmi, dimmi. Allora, riprendo un attimo il discorso dell'aborto, no? Perché ho sentito parlare di crocifisso, ho sentito parlare di contro la Chiesa, dicendo, ma nessuno ha parlato però dello spreco dei soldi pubblici. Sì, vabbè, ma lo spreco dei soldi pubblici, che vuol dire lo spreco? Cioè, lo spreco abbiamo fatto studiare anche lei. Paghiamo le tasse. Pensi lo spreco dei soldi pubblici. Abbiamo fatto studiare lei. Pensi lo spreco di soldi pubblici. Abbiamo fatto studiare lei. Pensi che spreco di soldi pubblici. Ma il fatto che uno vada in ospedale ad abortire. Non spreca soldi pubblici. E beh, allora, ho capito, ma che dobbiamo fare? Cioè, una ancora. Persona, come diceva Salvini in televisione l'altra sera, una persona che va 7 volte ad abortire, non è meglio fare prevenzione piuttosto che mandarla ad abortire 7 volte? Non lo so, sicuramente, ma non lo so, questo, ma bravo, va fatto questo tutto quello che vuoi, bravo. Ma cosa vuol dire lo spreco di soldi pubblici? Esatto, i soldi, questo sicuro. Ho sentito parlare in questa trasmissione oggi, perché ti ascolto tutti i giorni, è il crocifisso. Vabbè, non sento un cazzo, Ali da Milano, dai, Ali da Milano. Dimmi, Ali. Allora, io invece volevo parlare su il decreto di sicurezza di cui parlavate. Non me ne frega un cazzo, cosa vuoi dire, Ali? Avanti, forza. Cioè, cosa fondamentale. Cazzo, grazie, per non chiamato. Me ne frega nulla dei decreti di sicurezza. Allora, grazie per aver chiamato. Il fatto che tu dicevi, no? Salvini, come si dice da noi, tra i ciechi, governa chi ha un occhio. Lui è riuscito, usando i migranti, per fabbricare il suo consenso. Sì, vabbè. Quindi politicamente è vincente. Come dire gli altri, ai tempi dell'anti-berlusconismo, quelli utilizzavano Berlusconi per aumentare il consenso. Uguale, ognuno utilizza i suoi metodi, diciamo. No, poi possono essere più o meno condivisibili. Perché gli altri che su Berlusconi hanno costruito anni di consenso, non vanno. Quelli va bene. Salvini, che utilizza i migranti, quello non va bene. Mi fai parlare un attimo. Ali da Milano. Ali da Milano sarà sicuramente un extracomunitario e sarà sicuramente un extracomunitario. Sarai sicuramente irregolare. Sarai sicuramente irregolare. Perché? Però prova a dirti. Permesso di soggiorno in ISBA. Irregolare. Abbiamo decretato che è irregolare Ali. Ali è un irregolare. Secondo me è un irregolare. Posso dire così? Secondo me è un irregolare. Stare zitto un attimo, Cruciani. Non fa parlare. Intanto, caro amico Ali, io dico una cosa. Non è colpa mia. Dimmi. Allora, intanto voglio dire una cosa, Ali, grazie di essere qui. Ali, grazie di essere qui. Uno che è salito al potere per cacciare via 500.000 clandestini, arriva, fa un decreto per produrre altri, cioè è fuori di testa. Per cui lui, essendo più intelligente dei suoi elettori, è riuscito a fabbricare il suo consenso. Perché tornerà poi al potere dicendo, guarda, quelli che ho creato e cacciare via dall'Italia. Vabbè, quindi, come io sono extracomunitario, vivo anche sul territorio, quindi conosco bene, vengono mai nemmeno rimpatriati di quelli che lui ha cancellato. Alice da Padova, abbiamo capito. Alice da Padova, vai Alice, dimmi. Ali, grazie di essere qui. Volevo anticipare due cose. Io ho lavorato con Giletti direttamente, lo conosco personalmente e sono sicurissima, perché lo conosco, che lui non avrà mai detto prima di una diretta quello che il signore sostiene, assolutamente. Amica mia, cosa vuoi che ti dica? Non lo so, credo di no. Ci sono ovviamente una cosa detta senza testimoni, per cui non ci può essere nessuno. Anche perché noi è una infamità. Bravissima, anche perché comunque. Allora, posso dire però una cosa: ogni tanto, quando si fanno le trasmissioni, non sarà questo il caso, non lo possiamo provare. Giletti sicuramente non l'avrà detto, non lo so, lui sicuramente smentirà, la cosa è già uscita e va bene. Però spesso nelle trasmissioni si utilizza qualche espressione, magari non direttamente da parte dei conduttori, e magari gli autori, eccetera. Ma neanche gli autori, perché comunque. Non lo so, ti vengono a dire ogni tanto, magari stasera, vai giù forte. Ma non è che io posso dire, in quel caso lì non c'è neanche nulla da caricare. Perché l'uomo è già carico a pallettone. È talmente un idiota. E poi comunque paragonare Massimo Giletti a Barbara D'Urso. Assolutamente. Ma quello che c'entra, ma dai, ma quello là, ma quello lui l'ha fatto, quello etro l'ha detto in quel senso là, detto, vuole diciamo fare spettacolo, l'ha detto in quel senso lì, dai, cioè non c'entra niente. Vabbè, adesso tu non è che devi fare il difensore d'ufficio di Giletti perché ci hai lavorato. Si difende bene da solo. Si difende lo stesso da solo. Sono già lavorato in passato e ha sentito il dovere di chiamare, brava. Sì, ma non sono la sua collaboratrice, non ambisce, non è che non ci sta lavorando ora. Non ti sto dicendo che doveva chiamare, va benissimo che abbia chiamato, però adesso non è che il paragone con la D'Urso è, ma ho capito, non è che l'ha paragonato alla merda, cioè questo ti voglio dire, cioè non è che il paragone è con una merda, cioè la D'Urso è, cosa vuoi, tu ti senti offesa perché uno ti senti se uno mi paragona a Giordano, querelo io. Sì, ho capito, ma un Massimo Giletti laureato comunque con 110 che c'entra la laurea, c'è un sacco di gente laureata che non sa un cazzo, cosa vuol dire adesso, non è che devi fare il paragone, non laurea eccetera, sono due uomini di spettacolo, dunque lui ha detto voleva fare spettacolo come fa la D'Urso, non c'è niente di cui offendersi nella sua idea. Era un'offesa, secondo me non è un'offesa quella là, cioè lui stesso non si sentirà offeso da questa cosa, fermo. La Zanzara. Siamo a Gerusalemme, in David Street, e anche qui si ascolta La Zanzara. Woo! La Zanzara. Parliamoci chiaro, io ho fatto una puttanata grande quanto una casa. Questa è la verità. Sto male, ho lo stomaco gonfio, la gastrite, mi deve venire il ciclo, mi sento esaurita, Rita, non vedo l'ora che questa... Scusami, vedi? Vedi come sto? E questa è... Sono pronte per essere munte. Sono pronte per essere munte. Stanno qua. Pippe. Comunque in 10 anni di Zanzara si sono visti degli psicopatici tipo il Deone Scimmia, Mauro da Mantova, il Master Sean che frusta la gente che si fa prendere a calci nei maroni, i nazisti, ma tutto questo non è neanche lontanamente paragonabile a quella che raccoglie lo squirting e ci fa i biscotti, raga, ma questa è la più pazza mai vista che avete trovato in trasmissione, ma è incredibile. Chi è che vota questa, Parenzo, alle ultime elezioni? Chi è che ha votato alle ultime elezioni? David! Allora ragazzi, vengo ad apprendere che c'è una nuova classificazione di un libro fatta da all'interno di un libro della vagina. Si chiama La Bibbia de Vagina Bible. La Bibbia della vagina. E che cos'è? Caro avvocato? È così. Allora, le diverse forme della vagina. Barbie. La vagina dalla forma Barbie è quella più rara, anche se secondo il luogo comune è così che dovrebbero essere i genitali femminili perfetti, alle piccole labbra completamente contenute nelle grandi labbra, garantendo così una totale piattezza alle parti intime, proprio come succede nella nota bambola, che sembra non avere affatto una vagina. Questa conformazione anatomica però è la meno frequente perché difficilmente le labbra riposano contro l'osso pelvico, il più delle volte sono sporgenti. Cioè praticamente la Barbie si ispira alla cosa, è una classificazione scientifica, tu che dici mamma mia, cioè, di fronte alla scienza fai mamma mia allucinante. Poi c'è la vagina sbuffo. Senti, la vagina sbuffo è quella in cui le piccole labbra sono contenute nelle grandi labbra. ma queste ultime sono piene gonfie, soprattutto sulla parte inferiore. Mamma Anche mia. Se si pensa che una forma simile è praticamente la norma delle donne di età avanzata, in realtà si tratta solo di una credenza popolare. Mamma ogni donna mia. Ha una precisa conformazione anatomica, a prescindere dal tempo che passa. E dunque Mamma abbiamo due mia. Barbie, molto rara, e a sbuffo, dove le piccole labbra sono contenute nelle grandi labbra, ma queste Mamma ultime sono piene gonfie. Abbiamo attenda, conformazione attenda, la vagina attenda allora è quella in cui cena, aspetta, mamma ma mia, ragazzi, allora ma è scienza cena, questa, è scienza. C'è la gente vagina che attenda, mangia la polenta col formaggio e lui fa sta bar. La vagina attenda è quella in cui le piccole labbra si estendono al di fuori delle grandi labbra, dando l'idea di penzolare, proprio come succede con le tende di casa. Possono sporgere in maniera evidente oppure appena accennata. L'unica cosa certa è che questa è la tipologia di genitali femminili più diffusa. Dunque, abbiamo la vagina attenda, attenda. Voi che siete all'ascolto, cercate di distinguere nelle vostre parti basse. Poi c'è a ferro di cavallo, questa non mi era nota, però a ferro di cavallo. Anche la vagina a forma di ferro da cavallo è molto diffusa, è quella in cui la parte superiore risulta essere più aperta, la parte superiore, esponendo alla vista le piccole labbra, mentre in basso appare chiusa. Il riferimento al ferro di cavallo dunque non è casuale, e anche se sembra una cosa rara, non è insolito trovare degli organi genitali femminili fatti proprio in questo modo. Poi c'è a tulipano, non è finita, c'è a tulipano, l'ultima, amico mio, l'ultima, a tulipano. Una vagina a forma di tulipano si presenta come un fiore sul punto di fioritura. Mettimi la canzone sulla scienza, la classica canzone sulla scienza. Bravo, bravo. Una vagina a forma di tulipano si presenta come un fiore sul punto di fioritura. Il nome dunque non è stato scelto a caso. Questo significa che le piccole labbra sporgono leggermente attraverso tutta la lunghezza delle grandi labbra, apparendo leggermente esposte. Le grandi le coprono solo in parte, ma allo stesso tempo le lasciano contenute al loro interno. A tulipano. Vuoi che prosegua? No, credo che non sia il caso. No. Però dopo vi dico no. che cosa significa, no. secondo questa Bibbia della vagina, cosa significa avere in un certo modo, sempre secondo la Bibbia della vagina, uno poi ci può credere, esiste però qualcuno che sostiene che i crani siano diversi. C'è qualcuno che è esperto, caro Parenzo, di craniometria. Di craniometria. Allora, questo signore si chiama Paolo non Sizzi. Non è esperto. Se dici esperto, non è esperto. Hai ragione. È semplicemente un coglione. Un razzista, non è esperto, forse anche, non lo so. Siccome... Sì. No, il razzismo è cosa seria. È semplicemente un coglione. Allora, quindi non Paolo è Sizzi, esperto in crani. Paolo Sizzi. Capisci che tu dici che è esperto in crani. La gente pensa che sia una persona normale. Allora, Paolo Sizzi è un esperto. Invece qui non ci sono esperti. In questa trasmissione non chiamano esperti, non ci sono. Ci sono delle teste di cazzo, dei nazisti, dei fascisti, dei pazzi scatenati. E quindi questo rientra in tutte le categorie che ho sopra elencato. Scrive questo Paolo Sizzi: categorie. Quando ammiro il mio cranio e i miei tratti facciali, rimango sempre colpito dalla qualità razziale di cui la natura mi ha fatto dono. Orgoglioso di essere maschio, europide, eterosessuale e abile in un'Europa autogenocida che si vergogna mortalmente della propria identità. Io farei una telefonatina a questo signore già in passato, forza, ma figuriamoci, già in passato sottoposto a accuse di razzismo eccetera. Si presentava con una divisa, mi ricordo, no, a dichiarare il proprio essere lombardo, di razza lombarda, di razza lombarda. Pronto? Sizzi? Sì? Ne hai combinata un'altra delle tue. Un'altra delle tue. Con sta storia del cranio, dei miei tratti facciali, orgoglioso di essere maschio, europide, eterosessuale, eccetera, eccetera. E cosa ho detto di male? Ne hai combinata un'altra delle tue. Hai scritto un'altra cazzata. No, non ho combinato un bel niente, perché semplicemente ho espresso il mio orgoglio, che è più che lecito, e questo non deve essere un handicap, ma è semplicemente la constatazione della realtà. Ho capito, ma tu stai dicendo. Di razzismo, tu stai... di suprematismo, no, di nazismo, di discriminazione. Questo, sai, si può sempre equivocare in questi casi, soprattutto col tuo passato. No? Col tuo passato, col tuo passato, non c'è nulla di cui vergognarsi. Col tuo passato, con la tua condanna, eccetera, con quello che hai scritto nel passato, uno no, è facile che possa equivocare. Diciamo la verità, Sizzi. Sì, ho capito che possa equivocare, ma ripeto, se equivoca è un problema di ignoranza fondamentalmente. Scusa, ma secondo te un'ignoranza sua? Proprio nulla l'ignoranza di male. Sua. Ma scusa, come la fai a distinguere? No, l'ignoranza vostra, l'ignoranza di chi parla senza conoscere la realtà. Ma che dei cos'è fatti? La craniometria? Io non riesco a capire che cosa cazzo è la craniometria. Cioè, tu giudichi le persone in base al cranio, in base al cranio. misurazione del cranio, che ricollegata alla craniologia può determinare l'appartenenza fenotipica di un individuo. E non c'è nulla di diabolico in tutto questo. Non ho capito, un nero o un negro, come vuoi, appartiene alla tua stessa razza? Diciamo chiaramente. Assolutamente no, appartiene al ceppo negroide. Io invece appartengo al ceppo caucasoide. E anche un test genetico lo asseverirebbe tranquillamente. Ma anch'io non appartengo alla sua stessa, alla sua stessa, come la chiamate voi, razza. No, di sicuro non apparteniamo alla stessa etnia, razzialmente, lei non appartiene alla razza umana, infatti. Infatti lei non appartiene alla razza umana, lei appartiene alla razza delle teste di cazzo. Pensa, no, quella è la sua di razza, visto che tutte quante le volte non sa mai discutere, non sa mai argomentare, la sua. Però non c'è da discutere, c'è da darle, c'è da darle uno sberlone democratico e basta, un grande sberlone. Un sberlone da dare a lei e tutti quanti gli ignoranti che ogni volta confondono sempre le carte in tavola. In alcuni casi ci vuole lo sberlone. Aspettate, fermi un attimo, io voglio capire una cosa. Sizi, tu ti uniresti sessualmente con una persona nera di colore? È una domanda? No, assolutamente no, perché dovrei farlo. In principio, ma non esiste il problema. Quelli dell'endogamia? Dell'endogamia, cioè? Non c'è il problema. Cioè, che vuol dire? Cioè, tu ti unisci solamente con persone che hanno la pelle bianca? Ma naturalmente sì, proprio per un senso identitario. Figuriamoci di appartenenza, fare figli, che è così figuriamoci. Forte che mi porta anche all'endogamia. Figuriamoci anche figli, naturalmente. I figli non ne parliamo. Cioè, certo, naturalmente. L'endogamia va preservata in toto, integralmente, in una maniera coerente. E i matrimoni misti andrebbero vietati, secondo te? Beh, io sicuramente potrei proporre anche delle leggi per contenere il fenomeno, perché da un mio punto di vista se si arriva a una dispersione identitaria che rovina anche quelle che sono qualità biologiche razziali, è un danno. Bloccare i matrimoni misti. Allora, mettiamo... Ma assolutamente sì, ma che bisogno c'è di arrivare a sposare degli appartenenti ad altre razze? Ma se uno si innamora di una nera, di una di colore, qual è il problema? Se uno si innamora di una di colore, amico mio, ma che cazzo vuol dire? Dai, su! No, non è assolutamente così. Non mi fare incazzare. Non mi fare parlare di razzismo. Parenzo, non mi fare parlare di razzismo. Sarebbe indubbiamente propendere per la stessa razza, la stessa etnia. La questione è molto semplice: noi non sappiamo di chi sia figlio, ma lo possiamo immaginare tutti con grande tranquillità. Guarda, ma infatti io lascio a lei battute così squalide perché non posso. Ma scusa, ho detto, io non lo so, ma lo possiamo immaginare tutti. Situazione di minorità, lo possiamo immaginare tutti di chi sia figlio lei. No, però lasciamo perdere questo. Ma secondo te bisognerebbe bloccare anche a questo punto? Sì, la grande qualità del personaggio si evince anche da questi argomenti, perché mi ogni qualvolta si tenta di fare un discorso serio. Ti voglio chiedere una cosa. Secondo te bisognerebbe anche limitare la presenza di gay? Ma no, ma guarda, non c'è niente di diabolico nemmeno in quello. Io non sono omofobo, ci mancherebbe altro. Però? Riconosco l'esistenza dell'omosessualità e degli omosessuali. Quindi da un mio punto di vista si tratta semplicemente di non parificarli a quelli che sarebbero naturalmente degli elementi che veicolano una eterosessualità che poi si trasforma in famiglia, naturalmente. L'aborto, naturalmente, per carità, l'aborto lo vogliamo togliere, eliminare, no? Cancellare subito. No, l'aborto dipende. Se è un capriccio femminista è sbagliato. Se è un capriccio femminista l'aborto. Nel suo caso non c'era ancora. Sua madre ancora si dispera, infatti, guardi. Per i passaggi difficili della tua azienda, Studio Temporary Manager. Leader italiano nella gestione d'impresa, seleziona e gestisce i migliori team di esperti. Dal check-up aziendale alla soluzione della crisi, per il miglioramento e rilancio della tua impresa. Studio Temporary Manager è a Verona, Milano e Roma. temporarymanager.info. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra il problema dell'anticipo. Sottraendo la rata, la radice quadrata del budget totale, moltiplicando per il tasso dell'interesse. A destra è facilissimo, l'anticipo è uguale alla rata. Con Volkswagen Veicoli Commerciali la formula è semplice. Fino al 29 febbraio, Transporter tuo con leasing finanziario e anticipo uguale alla rata. Da 249 euro oltre IVA per 59 mesi. TAN 3,99, TAEG 5,13 per aziende e partita IVA. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. L'idea in più per chi lavora. Alza. Esperti. Money Farm, eletto per il quarto anno consecutivo miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente in Italia. Hai sentito? Io infatti investo con loro. Io ho il mio consulente. Io con loro ho un intero team di esperti. Ah. E la volatilità? Ogni tanto ribilanci? Ma da quando sei così esperto? Ci vuole un attimo. Vai su moneyfarm.com, il consulente finanziario indipendente eletto numero uno in Italia. Moneyfarm, il tuo migliore investimento. È nato un ibrido che rispetta l'ambiente e anche i tuoi risparmi. Nuove 500 e Panda Hybrid. Sedili infilato riciclato dai mari, fino al 30% in meno di emissioni, esenzione del bollo fino a 6 anni e più libertà di circolare, a un prezzo che piace a tutti. Da 10.900 euro oltre oneri finanziari anziché 12.400 euro, con finanziamento B-Hybrid. Nuove 500 e Panda Hybrid, l'ibrido secondo Fiat. Fino al 29 febbraio, TAN 6,45, TAEG 9,33. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su fiat.it, anche sabato e domenica. La Zanzara. Naturalmente. Luciani, ma un po' di quei biscotti allo squirting che ti ha fatto la signora, e li hai portati a Barisoni? No, perché io gliel'ho chiesto direttamente all'interessato, ma Barisoni fa l'ognori e non risponde ai miei WhatsApp. Ieri sera Parenzo è entrato ufficialmente nel mondo del BDSM insultando volontariamente la slave Silvia, sapendo di provocarle piacere nell'umiliarla e mandandola a fanculo. Si è involontariamente avvicinato finalmente a questo mondo. Master, Super Porro ti farà incazzare, caro Davide, ti farà incazzare. Intanto è vero, l'altra volta, no, come Porro giustamente nota l'ascoltatore, l'altro giorno sei entrato ufficialmente a far parte del mondo del BDSM, non perché hai intenzione. Insultato la Slave Cindy, non alla era quale mia intenzione. Mi ha detto dopo, uscendo dalla trasmissione, che si è anche un po' bagnata. Cioè, mi ha detto, gli insulti di Parenzo mi hanno fatto eccitare. Oh ragazzi, me l'ha detto lei, pittere. Che ti devo dire? Parenzo master che ha insultato Silvia. Ma per carità. A proposito di Porro, senti questa cosa qua. Le ONG che Porro portano era immigrati, un liberale, oh, oddio, sempre lo stesso refrain, che era palle. Un liberale una volta. Le ONG che portano gli immigrati, se le aziende commettessero le stesse infrazioni che commettono le ONG, farebbero a queste aziende un culo così. Il grande paragone di Porro, vai. È un'azienda alimentare che importa senza il permesso del ministero qualche cosa in Italia. Ma che culo gli facciamo a quell'azienda? No, perché se l'ONG ci accara la racchete, non ci sono multe, non ci sono processi. Cioè a processo va Salvini, che beh, non me ne fotte un cazzo di Salvini. Ma può andare a processo un ministro che dice che quella non può fare quella roba là, e lei che fa quella roba là invece fa l'eroina applaudita dal Parlamento Europeo? Toc toc! Amico mio, all'attacco, grandissimo. Ma che paragone paragone. Con le merci, è un paragone grandioso. Le merci come le persone. Ma che c'entra? Lascia perdere. Le merci. Ma è chiaro che ogni paragone che si fa Porro. difetta un po'. Però è non fondamentale. È Se tu cerchi di portare in Italia delle merci senza essere autorizzato, senza essere, cioè secondo te ha ma subito merci, un'alterazione? Porro, un'alterazione genetica. Secondo te Porro ha subito un un'alterazione deep fake, genetica? È un deep fake. Non senti è questa cosa che invece che Porro ti farà impazzire. Porro sulle, è un liberale, no, è una sull'evasione di scuola fiscale. Liberale, senti questa non cosa è qui sull'evasione fiscale. Nella stessa giornata in cui c'è il professor Cacciari che dice che ma ha scoperto adesso questa cosa il professor Cacciari, che paga il 60% di tasse e che quasi quasi si vuole trasferire a Vienna, così ha detto in un'intervista pubblicata queste ore, anche credo perché ieri. A Vienna si parla il tedesco e si può studiare meglio Heidegger e non lo so, quindi questo è evidente che si può studiare meglio Heidegger della, e Kierkegaard, ma vi pare possibile vi pare poi io devo pagare il 60% per... ma io vado a studiare Kierkegaard a Vienna, vado a studiare lo Hegel, andate tutti a fare. Ma è una cosa incredibile, il 60% di tasse. Ma allora vado via, io vado via, il 60%. Ma Hegel, come si fa a studiare Hegel e a tassarmi al 60%? Io devo studiare Fox. Feuerbach, io devo studiare Feuerbach e voi mi tassate, ma io vado via, perché studiare le monadi di Spinoza le avete studiate voi o no? Tu no, studi no, solo le mona, ma le mona sì, sono un'altra cosa in Veneto, invece le monadi sono quelle di Spinoza, e allora studia le monadi di Spinoza, non le mona che hai in testa, perché tu sei un mona nel senso veneto della parola, e allora io vado via, vado via, vado via da questo paese, chi se ne frega, vado in Austria dove si parla tedesco e si legge Kierkegaard, e lo si legge in tedesco e si parla appunto soprattutto quello, dai, ma anche perché, dopo tutti questi anni cosa c'è da studiare ancora di Kierkegaard, hanno scritto tutto ormai, e allora non mi rompete i coglioni e fatemi pagare meno tasse. Ma allora, cosa si studia ancora la filosofia? Scusi, lei che cazzo studia a fare? Ma allora, ma me lo chiedo, hanno ma già, allora la filosofia è tutto chiaro, hanno ormai già scritto, è tutto chiaro, esatto. Bisogna studiare invece quello che avviene la ora, vagina, i fenomeni sociali tutto... di adesso. Appunto, attraverso, ma anche quella è chiara, è fatta così e si usa in quel modo. Cosa c'è da sapere ancora? Beh, su quella qualcosa roba c'è sempre da sapere, qualcosa solo c'è un maniaco mona come te può occuparsi in modo ossessivo di quella cosa. Io voglio invece studiare i fenomeni sociali. Ma che c'entra con Feuerbach? Vabbè. Comunque, Porro e l'evasione fiscale, vai. Io voglio 5 mazzette in più, vabbè, e i lavori pubblici grave, che siano fatti. Voglio 10 piccole imprese che rubano, ma che ce ne siano milioni che nascono. L'ho ma detto difficile, l'ho detto semplicissimo, chiaro? Sì, più sbagliato. Mazzette, più lavori pubblici. Più mazzette, più ma lavori. È pazzo, è contro il concetto liberale, senti, peraltro, senti, perché senti invece cosa, senti cosa, rubare è senti, un modo senti, per senti, senti, truccare il mercato. Senti, senti. Più aziende che rubano, più aziende che nascono. Le due cose, ovviamente, sono il prezzo che si deve pagare per avere un paese più libero. Noi che cosa vogliamo? Noi vogliamo che nessuna impresa possa avere neanche per un secondo fottuto i propri creditori, così uccidendo la nascita di qualsiasi impresa. Pensate che sono un pazzo? Sì, se ascoltate la zuppa, io sono un pazzo. Come dice giustamente Belpietro, dobbiamo lasciarli morire. Dobbiamo lasciarli annegare, no, io oppure non ho detto lasciarli questo morire e crepare nei laghi questo libici. Ha detto questo! Professore, ha detto questo! Questo devo dire che è un pezzo eccezionale. Un pezzo eccezionale. È partito piano, sì, è partito dando apparentemente, apparentemente ragione questo a Belpietro. Sì, sì. Ha dato apparentemente e poi lo ha massacrato. Massacrato. Allora, riprendendo lo studio sulla vagina, condotto dall'Università dell'Indiana, aspetta, e la forma della vagina che vi ho esposto riuscirebbe a influenzare il piacere sessuale, così come succede agli uomini, la cui anatomia avrebbe un ruolo fondamentale sulla possibilità di raggiungere un orgasmo più o meno soddisfacente. Anche per le donne varrebbe la stessa regola. Il motivo per cui avviene una cosa simile sarebbe molto semplice: quando la distanza tra clitoride, questa è scienza, bravo, bravo la corte, quando la distanza tra clitoride e apertura vaginale non è superiore ai 2,5 cm, ripeto, quando la distanza tra clitoride e apertura vaginale non è superiore ai 2,5 cm, si creerebbe un attrito eccitante che favorisce l'arrivo al culmine del piacere in poco tempo durante il rapporto intimo. Se al contrario questa distanza supera i 3 cm, guarda che questa è una scienza pazzesca, sarebbe difficile godere con la sola penetrazione, al di là delle possibili ricerche scientifiche, eccetera. Allora ragazzi, allora, quando la distanza tra clitoride e apertura vaginale non è superiore ai 2,5 cm, si creerebbe un attrito eccitante, dunque più facile ancora arrivare all'orgasmo. Ma chi si mette a se invece questa distanza, e vabbè, questa però è la scienza, questa distanza supera i 3 cm, sarebbe difficile godere con la sola penetrazione. È tutto. Marco da Milano, anzi c'era uno da Roma, però prima Marco da Milano, vai Marco, dimmi. Marco da Milano è il direttore dell'Espresso, per fortuna. Si chiama Marco da Milano, ma dimmi Marco. Senti, ti chiamavo per, siccome si stanno frantumando i coglioni da qualche giorno per questo attivista LGBT che collabora con ONG, che ma chi? Zaki? Sì, quello perché lì che frantumando master, i coglioni? Quello sta in Egitto, amico sì, mio. No, vabbè, appunto, purtroppo è egiziano. Speriamo che non succeda nulla a questo, no, a questo certo, signore. Pensa che è idiota. Ma tu stai dicendo ci stanno frantumando i coglioni adesso? No, perché lui ha tutte le credenziali per essere assurdo paladino. Ma non lo so, Marco, io non so se è papa o non papa, seguo le cronache, seguo le cronache, meno male che c'è attenzione su un signore che è in prigione in Egitto. Pensa che idiota è questo. Solo pensa che si sono accorti che è egiziano, quindi le leggi alle quali deve sottostare sono quelle egiziane, no? Tu pensa, questo non vuol dire che le leggi egiziane siano delle leggi corrette, che cazzo vuol dire, dai? Ma sono le leggi egiziane, no? Voglio dire, sono quelle egiziane, lui è egiziano, leggi egiziane. È arrivato il genio e vorrei parafrasare pensa quanto il grande è cretino Donato, questo. No? Il grande Donato. Tu pensa quanto è cretino questo, detto, pensa risolviamo qua. Il problema dandogli la cittadinanza italiana. Ma io non lo so, guarda, non lo so, Saviano, non so Saviano quello che vuole fare o quello che non vuole fare, pensa questo quanto è cretino. Mi interessa poco. Ma tu le culture, la cultura le rispetta tutte, no? Lo dici sempre, bisogna pensa rispettare questo, le culture dei non quelle amici, che migranti. Non rispettano i diritti umani, no, allora non quelle che non rispettano i diritti umani. Io rispetto la democrazia, io rispetto le democrazie. Bisogna rispettare. E infatti scappano da terre dove non c'è democrazia, perché vanno verso la libertà. Provincia di Bari, Irzak si chiama questo qua. Irzak. Buonasera. Allora, ma come cazzo ti chiami, scusa, non lo capisco. Irzak. Allora, sono albanese, che cazzo vuoi? Non è che amo mi cangio un nome per copato. Ma no, ma per carità, ma mi hai preso anche in contropiede. Non l'ho scelto neanche io. Quando sono nato mi hanno puesto su nome. Sì, potresti accettare. Essere anche un fake, però comunque diamo. No, se vuoi ti do il codice fiscale e tutto il resto. Dammi sto codice fiscale, dimmi. Qual è il codice fiscale, dimmi. Aspetta che prendo il portafoglio. Scusate. Prendiamo. Irzak ti chiameresti tu, no? Irzak. Sì, da Santeramo in Colle, provincia di Bari. Santeramo in Colle. Allora, Palermo, Juventus, Como. Poi? Roma. Sì. Zorro, K, 89, S. Sì. 17, Zorro. Sì. Zorro, poi? Non te la dico l'ultima. Perché non me la dici l'ultima? Vabbè dai, Verone, che cacchio. Ma tanto che ti frega, che ci fanno col codice fiscale? Non ho capito. Ma c'è cazzo Napoli, tanto ormai... convivo, ho un figlio con una ragazza italiana, quindi mi sono integrato benissimo. Quando sei arrivato in Italia, scusa Mirzak? Sono una ventina d'anni più o meno, però ho 30 anni, ho fatto le scuole medie, insomma. Vabbè, che ci vuoi dire? Perché ci hai chiamato? Allora, intanto volevo dire che quella ragazza che faceva i biscotti con lo squirting, secondo me li deve mettere in commercio. E farebbe un sacco di soldi. Può essere, non lo so. Il sapore, devo dirti la verità, il sapore era un sapore simile ad altri biscotti, cioè non c'era quella caratteristica forte dello squirt, capito? Questo te lo dico, assaggiati, l'ha assaggiati anche Gottardo, magari domani viene e ci dice anche lui il suo parere a giorni di distanza da quell'evento. Avrei preferito che le assaggiava Parenzo, però vabbè. No, Parenzo non si è sottoposto a questa cosa, ragazzi, non si è sottoposto. Allora Isaac, dimmi. Io l'ho chiamato perché sì. Ho 30 anni, è la prima volta che ho ucciso un pollo. Cioè tu hai ucciso un pollo, come l'hai ucciso sto pollo? Allora, ma è stata una cosa bellissima. Sì. Praticamente prendi i piedi sì. del pollo, metti il pollo sì, sdraiato. Ma come ti sei trovato ad uccidere un pollo, spiegami. No, perché io siccome lavoro in campagna, diciamo, allora tra un cliente e l'altro, diciamo, faccio un lavoro, diciamo, che mi sposto sempre. E così allora, ti sei trovato per caso a uccidere un pollo? Ci sarà stato un motivo? Non è che mi sono trovato per caso. Cioè lavori in un'azienda agricola? Hai un'azienda agricola? Io faccio i muretti a secco, sai, i muretti in pietra. Muretti a secco, sì, sei un operaio, cioè un operaio, un manovale. Sì. Allora un cliente aveva questi polli, diciamo, tanti polli, e gli ho detto, beh, dammene uno. Sì. E me l'ha dato, che io pensavo che me lo doveva dare tagliato. Cioè, già morto. Positivo. E poi? Me lo sono portato a casa e l'ho ucciso io. Ho sdraiato il pollo, sì. Gli ho messo il piede alle gambe sì. e l'altro piede alle ali, diciamo, per bloccarlo. Gli ho preso il collo sì. e mentre lo tagliavo sentivo quel pizzico di... Non lo so, sai, tremava tutto quando gli tagliavi la gola, poi il sangue... Ma che impressione! Ma... No, non è impressione, Parenzo, scusi, nell'antichità come facevano? Avevano... Ma nell'antichità... Ma perché ci stai raccontando questa cosa, Isaac? Perché hai provato hai provato un sottile piacere a uccidere questo pollo? Perché è un sadico. No, per carità, Parenzo, no. Ho capito, però no, ti sei trovato a uccidere questo pollo e hai goduto, e se no altrimenti che cosa ce lo racconti a fare? No, sì, quello sì, ho un poco goduto, ma non... Cioè, è un sadico. Ho goduto nel... Ma non sono un sadico. Scusa, perché uno non è che sono uscita a CD Crestier, cioè nel senso. Ma posso dirti la verità, Isa, che io sono ovviamente a favore, e non so nemmeno se si possa fare questa cosa che tu hai fatto, cioè prendere un pollo perché e ammazzarlo. Non si può fare, scusa. Ma secondo me sì, se ti regalano un pollo vivo e tu lo ammazzi, non so se si possa fare o no, cioè, ma c'è una legge che non che vieta... I polli vanno ammazzati di solito con un certo criterio, cioè non è che si possono ammazzare così i polli a cazzo di cane, però penso che se ti regalano un pollo lo puoi ammazzare, non lo so, ma non me ne frega niente. Se ci fosse la Martani ti denuncerebbe, vorrebbe fammi sapere nome e cognome e tutto, sarebbe giusto, diciamo cazzare. La Martani, sì, va bene la Martani, ma la Martani deve capire anche che comunque siamo nel 2020. Grazie a questa democrazia hai goduto un po' nell'ammazzamento del pollo, nel taglio della gola del pollo. Com'è finita poi? Il sangue, le cose, com'è finita? No, te lo sei mangiato alla fine o no? Certo, era buonissimo, perché comunque è un pollo di campagna, non sono quelli insomma del supermercato che fermi tutti! Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ancora da casa, pronto? Pronto? Ale.